quanto sia pericoloso, per esempio, essere ora qui in questo momento sotto un tetto in Eternit. E Ciccio credo voglia amplificare questo quesito con un episodio. Però, siccome ho lavorato qualche anno in una redazione, so che i colleghi e gli amici di Gazzetta del Sud, Calabria Ora e Quotidiano devono andare via, e immagino che vogliano conoscere la posizione del comune, che è esigenza giornalistica, insomma. Se siete d'accordo, se siamo d'accordo tutti, diamo la parola al dottore Valerio Bocconi, che è consulente, lavora con l'assessore all'ambiente del comune di Cosenza Hauser. Sentiamo un po' qual è l'orientamento dell'amministrazione comunale in merito a questa vicenda e poi torniamo a bomba sul dottore Falvo e poniamo tutti questi quesiti. Ricordo che l'iniziativa è realizzata dalla rete difesa del territorio Franco Listicò e che quel bar serve a finanziare le attività di questa rete di associazioni che in Calabria si occupano di questa come di altre vicende legate alla tutela dell'ambiente. Grazie innanzitutto all'ONA e alle associazioni che stasera presenti per aver dato all'assessorato al Comune di Cosenza all'assessorato alla sostenibilità ambientale diretto dalla dottoressa Hauser la possibilità insomma di dire anche la nostra. Io sono Valerio Boccone, premetto che sono un esperto del Ministero dell'Ambiente e non un consulente del comune, quindi sono inquadrato in un accordo comune ministero proprio per l'assistenza tecnica e lo sviluppo di progetti sul territorio. Fin dalle prime battute siamo stati sensibili al problema amianto, proprio osservando questa struttura, perché passavamo su viale Mancini, e quindi osservavamo questa struttura e ci interrogavamo come poteva essere riabilitata questa struttura e perché non era stato fatto nulla nel corso degli anni. Poi andremo avanti. Allora, subito l'assessore ha dato incarico a me ed ai miei colleghi di organizzare una struttura che potesse interrogare tutto il sistema e verificare quanto amianto era presente sul territorio ed è presente sul territorio di Cosenza. Abbiamo organizzato una squadra, quindi una task force con stagisti dell'Unical, quindi totalmente gratuita dal punto di vista degli oneri a carico del comune, e con i stagisti del Dipartimento di Ingegneria abbiamo iniziato il censimento, studiato la legislazione, perché sono esperto anche nelle bonifiche, quindi abbiamo fatto dei training sullo studio della legislazione e abbiamo visto che comunque la regione era inadempiente dal punto di vista, come diceva il dottor Infusini, era stata inadempiente nel corso degli anni ed è ancora oggi inadempiente per quanto riguarda il piano regionale sull'amianto. Perché dico questo? Perché in pratica è la base dal quale partire, insomma, dove vengono contenute tutte le linee guida, anche le aziende, lei prima diceva, e come facciamo ad essere sicuri se questa bonifica avverrà e con quali criteri, e soprattutto dove andrete voi ad effettuare le vostre azioni di solidarietà. Una parentesi, le associazioni, io dico sempre perché ho fatto volontariato, oggi sono qui ma faccio ancora volontariato, conosco il problema dei tumori, conosco il sociale e le associazioni curano i mali della società, curano tutti i picchi dell'emarginazione vengono molte volte tamponati dalle associazioni. Io sono molto vicino a questo, come anche l'assessore è molto vicino a questo tipo di realtà. Quindi, per dire, abbiamo iniziato il censimento. Abbiamo preso dei documenti e quindi le autonotifiche e dei documenti che provenivano dalla Procura della Repubblica, delle sollecitazioni, le abbiamo inserite in un database georeferenziato, quindi anticipando ciò che dice attualmente la legge regionale, ed abbiamo visto che la città è tappezzata. Parallelamente abbiamo condotto un censimento sugli edifici pubblici, qui la situazione è diversa, solo in pochi siti è presente l'amianto, e quindi abbiamo portato avanti questa politica del censimento, perché poi rappresenta la situazione e lo stato dell'arte. Premetto che l'assessore è un tecnico e quindi non è un politico, ma abbiamo trovato appoggio da parte del sindaco, una grande solidarietà lo dico qui oggi anche verso queste associazioni che sono presenti verso questa struttura, perché si sta pensando a dare, di creare una struttura che dia insomma una location dignitosa dal punto di, non per questo, perché questa non lo è, però dal punto di vista sanitario, che vada a tutela delle persone che agiscono, sono presenti presso una struttura, ospitano determinate situazioni, alcune insomma ci lavorano, io ci passo spesso, qui vedo che ci sono diverse attività. Per quanto riguarda l'aspetto della regione e quindi questa mancata, queste inadempienze della regione, abbiamo inviato diverse sollecitazioni, ma abbiamo fatto anche attraverso il Ministero un'interrogazione alla regione per sapere dove sono finite le risorse che erano destinate per l'attuazione del piano, diciamo del piano, sia del piano regionale, ma di tutto quello che prevede la legge dal 92 ad oggi. Ad oggi ancora nessuna risposta. Oggi ho telefonato il collega al Ministero, ancora non deve pervenire nessuna risposta. A noi addirittura ci sono arrivate, e lo diciamo, la denunciamo con forza, ci sono arrivate giusto tre righe dove si diceva stiamo per sviluppare il piano regionale. Vabbè, questo lo sapevamo, è per legge, lo dovete sviluppare. La scadenza è l'ottobre, ormai sono passati diversi mesi. Contemporaneamente abbiamo inviato altre lettere al Ministero, un'altra lettera al Ministero della Salute e quindi al Dipartimento Tutela delle Risorse Idriche e del Territorio e al Ministero della Salute. Al Ministero della Salute perché attualmente non c'è un registro sui mezzi dell'uomo. Io conosco bene la problematica, avendo vissuto insomma dei drammi insomma, in famiglia, conosco bene la problematica perché i tumori vengono registrati come arresto cardiaco, cioè l'arresto cardiaco insomma, è tutto per la fine della persona, diciamo così. E quindi questo è un qualcosa di grave perché non si ha il polso insomma, della situazione. E ad avendo partecipato a delle ricerche e delle indagini epidemiologiche sull'impatto che i rifiuti hanno sulla salute umana, molte volte i dati che sono presenti e che sono esistenti sono sottostimati, perché non si è mai fatta una mappatura all'interno insomma, delle strutture sanitarie di quali sono i casi di mesotelioma o di altri tumori riconducenti ad inquinamento da amianto o da interni. Che cosa voglio dire? Voglio essere sintetico. Il comune, dopo aver fatto il censimento, si è attivato con una propria ordinanza, anticipando quello che poi era previsto, che sarà previsto nel piano regionale, e ad attivando un ufficio in via degli Stati. E non solo, attivando anche un numero verde, perché soprattutto bisogna valutare caso per caso, rispondere caso per caso ai cittadini. Ad esempio ci sono situazioni molto critiche sui condomini dove lì ci vogliono dei pareri, sono necessari dei pareri legali, e dire quindi l'amministratore del condominio è responsabile della copertura e quindi deve ottemperare, o se c'è oppure lo può fare un privato, lo possono fare dei cittadini con i propri fondi e quindi mettendosi d'accordo, ma questo è qualcosa di più complesso. Siamo per far partire una cartolina che andrà in tutte le utenze registrate presso gli uffici postali e avrà delle indicazioni sul numero verde, delle indicazioni base sul rischio sulla salute. Stiamo per pubblicare delle locandine che andranno nei centri medici, nei centri ospedalieri, nei punti di incontro. Insomma, stiamo sollevando un po' il problema dal punto di vista dell'opinione pubblica, perché poi è l'opinione pubblica che spinge le istituzioni a fare. La situazione, se il comune se non è sollecitato, la regione se non è sollecitata, il ministero se non è sollecitato, il problema resta, molte volte può restare lettera morta, resta lì, quindi si dirà vabbè, non l'abbiamo fatto perché non c'era l'esigenza, invece c'è l'esigenza perché l'amianto si vede, è presente, e quando non si vede è ancora più pericoloso perché ci sono ad occhio nudo, così si possono osservare per la città delle cisterne o delle coperture di caldaie insomma a gasolio, delle tubature che venivano usate come isolamento termico, delle caditoie e via dicendo. Il nostro impegno è totale. Il prossimo step sarà quello di produrre ed anticipare la regione ed offrire ai cittadini una gamma di opzioni per poter bonificare l'amianto dai propri tetti o dalle proprie strutture. Il comune potrebbe offrire attraverso dei contributi, attraverso delle aziende convenzionate, voglio fare così, darò un elenco così che poi sarà ufficializzato, ma lo stiamo ancora studiando, attraverso degli accordi con le banche, attraverso dei fondi sull'efficientamento energetico, quindi dire noi ci convenzioniamo con delle ESCO, con delle aziende che promuovono le energie rinnovabili e diciamo ai cittadini guardate, l'azienda vi bonificherà, vi metterà a posto il tetto, l'energia venduta andrà all'azienda e quindi andrete a scomputare il costo. Cioè le opzioni ci sono, certo è difficile perché come diceva il dottor Impusini, la regione con quei fondi non riuscirà neanche a dare, sono talmente esigui che non darà neanche, riuscirà a dare neanche attuazione a quello che prevede, la legge stessa. Per quanto riguarda le aziende, invece le aziende e quindi quel famoso registro che il piano regionale dovrebbe prevedere, cioè delle aziende abilitate a bonificare l'amianto con tutti i criteri, abbiamo patrocinato un'iniziativa dell'Università della Calabria attraverso una sua appendice di un corso di formazione proprio per operatori e quindi lavoratori che vanno ad intervenire concretamente. Ha avuto un grande successo, si ripeterà, era prevista una piccola quota di iscrizione, forse verrà abbassata, mi dicevano i responsabili del corso di formazione che verrà ulteriormente abbassata, ma ci sono dei costi evidentemente di sistema che a volte devono essere sostenuti. Per quanto riguarda questa situazione specifica, sicuramente la volontà dell'assessorato è quella di incontrarsi con i cittadini, fare un percorso condiviso, pacifico, condiviso di incontro e trovare una soluzione per poter poi bonificare, perché come ci sono tutti i movimenti, quindi ci sono diversi movimenti, noi siamo no amianto, cioè noi siamo no amianto pro salute, dobbiamo bonificare questi siti, dovranno essere bonificati questi siti, solleciteremo le ferrovie, ma al contempo andremo incontro anche alle associazioni e ai diversi portatori di interesse. Quindi uno step successivo sarà proprio quello di promuovere un tavolo di discussione con le associazioni per capire come portare avanti questo discorso, anche perché sul territorio comunale ci sono diverse strutture non utilizzate o parzialmente utilizzate che potrebbero ospitare con tutti i servizi delle attività, le vostre attività. Grazie. Allora, Ciccionote è scappato, ringraziamo il dottore. Vai, forse è bene che il quesito lo ponga tu direttamente al dottore Fallo, no? Sì, nel senso, vabbè, sembra che mi sento un extraterrestre da un po' di anni. Ed è bene che questa questione dell'amianto qua, appunto nei capannoni, è bene che ne abbiamo parlato così pubblicamente in questa iniziativa, ma penso che sia ancora più urgente, cioè oramai non più discutere, perché come dire, il tavolo con l'amministrazione, se vogliamo, è informalmente già iniziato, i piani per il censimento sono già stati fatti, io personalmente ho fatto uno qua nel 2009 ed è depositato sempre nello stesso ufficio che ha detto il dottore prima, lì a Via degli Stadi. Quindi voglio dire, se c'è l'urgenza, e a mio avviso c'è l'urgenza, perché quasi si conta insomma, intorno ai 3500 metri quadri di amianto, alcuno assolutamente assolutamente mal ridotto, non lo dico io, nel senso io sono forse stato uno dei primi che l'ho detto, però poi è venuta fino anche l'ASL a dire che alcune centinaia di metri quadri vanno assolutamente ridotti. Quindi ecco perché passare ai fatti, perché altrimenti forse sono le associazioni, i residenti, diciamo, dell'area, quindi le associazioni che intervengono assolutamente in una maniera, poi magari mi dirà pure il dottore Falvo se è appropriata la riparazione di buchi che avvengono sui tetti, che sono avvenuti sui tetti di alcuni capannoni di un'associazione che sta qui, Stella Cometa, nel caso principale, tra l'altro in un periodo molto importante che è stato la Fiera Immensa, in cui addirittura ci si è intervenuti da solo a tagliare con il flessibile le lastre di Eternit per riapplicare lastre di Eternit su Eternit. E quindi capite bene, penso che la gravità sia davvero grande. Quindi ecco perché bisognerebbe passare ai fatti. E chiedo una cosa all'ONA, che poi è anche un po' una cosa reciproca, no? Chiedere, come dire, prendere a cuore, prendere a modello, a studio proprio quest'area. Perché? Perché quest'area è proprietà da febbraio è della Regione Calabria, poco prima era del Ministero dei Trasporti, e quindi sempre comunque un'area pubblica, ma adesso è ancora più vicina ai cittadini, più vicina a noi come istituzionalmente parlando. Quindi area pubblica, area al centro della città, area vissuta da decine e decine di persone giornalmente, decine, centinaia, insomma, non è un problema questo il numero, non solo vissuta ma anche agita nel sociale, okay? Quindi insomma, penso che questi siano elementi importanti. Io chiedo, insomma, a prendere a modello come Cosenza un'area che è davvero, penso, sia emblematica. Noi, le associazioni presenti sono sia, diciamo, legittimamente autorizzate a stare qui, e sia alcuni di noi ci siamo ripresi gli spazi, perché abbiamo pensato che forse se no c'era qualcun altro che se li prendeva, no? Ma non che li utilizzava, voleva demolire per farne ancora palazzi, cemento e quant'altro. Ecco, quindi io mi sono sentito per questi anni un po' un extraterrestre, mi fa piacere averne parlato, insomma, niente.